Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Effetto mondo. We should be doing something else right now. We shouldn't be doing this. We should be passing coronavirus relief like the House just did, which was a significant bill that would have been a big help. And I think people have to know that right now. Buongiorno Giulia. Buongiorno. Allora, siamo ancora negli Stati Uniti, sì. Ma cosa ci hai fatto sentire? È oggi la voce di Amy Klobuchar, senatrice del, sì, Minnesota, senatrice democratica, la ricorderete, era una delle candidate alla nomina del Partito Democratico, sì, per la presidenza. Fa parte della commissione giustizia del Senato, quindi sta partecipando e ha quindi diritto di fare degli interventi e di fare delle domande a Amy Coney Barrett, che è la scelta di Donald Trump per la Corte Suprema, che per procedura deve adesso appunto farsi ascoltare da questa commissione e poi ci sarà una votazione con tutto il Senato presente. Ricordiamo, il Senato è controllato dai repubblicani, quindi i giornali oggi dicono dovrebbe andare tutto secondo la tabella di marcia prevista, cioè avere la conferma prima del 3 novembre, giorno delle elezioni. Ma qui Amy Klobuchar esordisce dicendo: vorrei ricordare a tutti che c'è qualcosa che non va in questa cosa che stiamo facendo, perché sono ore e ore e ore di interessantissimo, veramente. Per me è una lezione di democrazia e di trasparenza ascoltare queste audizioni, che sono quasi degli interrogatori. I senatori possono fare tutte le domande, da quante lingue parla, quali sono le tue attività preferite, i tuoi hobby preferiti, e qualsiasi domanda su tutte le sentenze che la giudice Barrett ha firmato negli scorsi anni. Ha 48 anni, ma ha già una lunga carriera alle spalle. Amy Klobuchar dice: dovremmo essere qui come Senato a fare quello che sta facendo la House of Representatives, cioè occuparsi di legislazione d'urgenza per l'emergenza economica. Invece siamo qui perché, come sappiamo, Donald Trump ha un po' forzato i tempi di questa nomina. Giulia, che altro c'è come titoli principali, grandi notizie sui giornali internazionali? Naturalmente il tema della campagna elettorale, ripresa in grande stile, perché come sapete Donald Trump ieri ha fatto uno dei suoi rally, si chiamano così, cioè di questi comizi elettorali in Florida. Sul New York Times c'è anche, tanto per darvi un'idea, non dimentichiamocelo mai, di quanto costano le cure negli Stati Uniti, c'è la notizia per esempio di questo paziente che è stato trasportato di urgenza in ospedale con un'eliambulanza perché c'era troppo traffico a New York. Gli è arrivato a casa un conto solo per il trasporto in ospedale di $52,112. A cui si aggiungono, tanto per darvi un'idea. Poi naturalmente c'è il tema dei vaccini. Sapete che è stato interrotto il processo di sperimentazione per quello della Johnson & Johnson, e ieri invece ha interrotto la sua sperimentazione anche la Eli Lilly. Qui in questo caso non è esattamente per un vaccino, ma per un farmaco molto simile come funzionamento a quello che Trump ha definito miracoloso, il Regeneron, che è un farmaco, come sappiamo, a base di anticorpi monoclonali. Su questo c'è molta discussione, perché questo farmaco è stato ottenuto dalle cellule staminali dei feti risultati degli aborti selettivi, cioè feti abortiti non per ragioni mediche, ma per una scelta delle donne che hanno appunto scelto di abortire. Come capirete, questo cozza palesemente, ed è stato fatto notare da tantissimi media americani, con i proclami di Trump pro-life, non pro-choice, che quindi non sono contro l'aborto, perché l'aborto non viene considerata una scelta che spetti alle donne. E su questo, se vuoi, cioè, sì, su questo le hanno fatto molte domande. Sentiamo la voce di Amy Barrett, che ha detto che per ora lei non prende posizioni su alcun tema, che aspetterà sempre di vedere che il caso che venga di volta a volta sottoposto. Ma sentiamo la voce di questa donna molto decisa, molto calma, e anche lei è molto piacevole e interessante da ascoltare. I'm not here on a mission to destroy the Affordable Care Act. I'm just here to apply the law. Dice: non sono qui con una missione, perché naturalmente le è stato contestato che Donald Trump avrebbe come una sorta di accordo con lei per subito prendere delle decisioni sull'Affordable Care Act, detto anche ACA, cioè l'Obamacare, che assicura ad americani che altrimenti non avrebbero copertura sanitaria, circa 20 milioni di persone, una copertura sanitaria di base. E lei dice: non è questa la mia missione, io non ho preconcetti né su questo, né sulla legge, sulla famosa sentenza che consente l'aborto, né sulle eventuali contestazioni sulle elezioni. Io esaminerò i fatti e di volta in volta le cause. È un po' una risposta sibillina, perché naturalmente poi dipende da come si avvicina a questi temi. Giulia, in Gran Bretagna mi segnali che insomma, si crea quella dialettica tra governo e opposizione, no? Sul sì. lockdown più o meno duro. In Italia l'opposizione adesso chiede, come dice, di non inasprire troppo le restrizioni, no? Però invece a parti invertite in Gran Bretagna che succede? Sì, qui c'è un po' il ricorderete sicuramente la sconfitta del partito del Labour nelle elezioni del dicembre scorso, ma è cambiato tutto dal dicembre scorso. Il trionfo di Boris Johnson è stato segnato dall'irrompere della pandemia, e viene accusato ormai anche dal suo stesso partito di non averla gestita bene, e il Daily Telegraph titola Lockdown Battle Begins, inizia la battaglia sul lockdown, perché Boris Johnson ieri ha annunciato queste misure più strette. Le foto in copertina sono due: da una parte Boris Johnson e dietro il cancelliere dello scacchiere Rishi Sunak, al quale spetterà se effettivamente il lockdown verrà confermato, magari addirittura allargato, spetterà mettere a punto altre misure, perché lì stanno finendo tutti gli aiuti di emergenza, l'equivalente un po' della nostra cassa integrazione, le agevolazioni per i ristoranti, bisogna trovare qualcos'altro. E dall'altra parte c'è il leader del Labour, che invece, sposando le raccomandazioni dell'equivalente del nostro comitato tecnico scientifico, ha detto: no, è il momento di fare un lockdown più generalizzato e ancora più stringente. E su questo naturalmente si gioca una battaglia politica, perché, per cinico che possa sembrare, è l'occasione per questo nuovo leader del Labour per costruirsi un consenso in un momento in cui il paese è completamente allo sbando, perché questo è appunto, si vede anche dalle battaglie interne al partito di governo. La carriera politica, anche quella di Macron, del presidente francese, sicuramente non so se ha un bivio, ma insomma è anche lui alle prese con la gestione naturalmente della pandemia, e c'è attesa perché dovrebbe tenere un discorso. Sì, quando Macron fondò il suo partito En Marche, ebbe il successo anche in parte inaspettato che lo portò poi alla presidenza, lui fece proprio questo discorso di coniugare le esigenze sociali con quelle economiche per costruire una nuova destra, una destra appunto più attenta, anche più di centro, ecco, un partito autenticamente di centro. E adesso queste parole, naturalmente quest'idea di conciliare, di fare due cose allo stesso tempo, un occhio alla società e un occhio all'economia, un occhio al liberismo e un occhio invece a una, appunto, a una concezione più inclusiva della società, non che gli si rivoltino contro, però assumono un significato completamente diverso. E quindi Libération, per esempio, titola: adesso il nemico da combattere è il Covid, la precarietà, e Macron ci riparlerà di nuovo di fare due cose insieme, cioè contemperare le esigenze sanitarie con quelle economiche. Sicuramente sarà uno dei discorsi probabilmente più difficili della carriera di Macron. Germania invece cosa ci segnali? Beh, in Germania c'è anche lì, nella razionalissima Germania, come sapete, crescono molto i contagi. Il ministro della salute ha detto: prepariamoci eventualmente a misure più drastiche, e molti giornali locali si pongono il tema sì o no il vaccino per l'influenza, perché i Novax, lo sappiamo, esistono e sono anche molto presenti in Germania. Poi naturalmente le elezioni americane con la foto di Trump, e poi anche il tema delle sanzioni, che è anche l'apertura del Financial Times di oggi. Le sanzioni decise dall'Unione Europea, dalla WTO, che l'Unione Europea può imporre agli Stati Uniti per, come diciamo, compensazione degli aiuti di Stato concessi alla Boeing. Naturalmente è il round 2 di una battaglia che dura da 16 anni sul fatto che l'Europa abbia concesso degli aiuti di Stato a Airbus, e quindi gli Stati Uniti hanno potuto imporre sanzioni, e adesso questo è round 2 di questa guerra commerciale che, scrive Financial Times, non fa bene alla fine a nessuno. È la never ending story tra Europa e Stati Uniti. Sì. Abbiamo ancora, credo, qualche secondo, forse per un paio di titoli, sì, ancora. Sì, un flash, guarda, dalla South China Morning Post, che ci aiuta a tenere un occhio aperto, a più trasparente che usando altri quotidiani cinesi, su Hong Kong. A Hong Kong, abbiamo detto, hanno chiuso due hotel di lusso e per focolai, adesso è in quarantena anche tutta la filarmonica di Hong Kong. Certo, è un piccolo segnale, però vuol dire che appunto, dico, io ci sto molto attenta, perché dalla Cina non possiamo sperare di avere informazioni, insomma, davvero trasparenti. Hong Kong un pochino di più, perciò vuol dire che comunque anche in quella zona del mondo non è così facile tenere sotto controllo il coronavirus. Grazie Giulia, è tutto anche per la puntata di oggi. Noi ci risentiamo naturalmente domani. Ringrazio Valeria Bernardi in regia, Jacopo De Franchi in redazione. Buona giornata, a domani, ciao. Per le aziende professionisti, il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.